GR Europa. Un saluto da Gigi Donelli, noi partiamo dallo scandalo della carne scoppiato in Gran Bretagna. La Francia sospende la ditta che, secondo le indagini, sapeva di commercializzare cavallo al posto di manzo. La filiera di produzione, infatti, è passata attraverso l'intera Europa. La tracciabilità degli alimenti nell'Unione Europea funziona, ha commentato comunque il commissario alla salute Borg. Ma allora perché la truffa non è stata scoperta prima? Laura Bettini l'ha chiesto a Paola Testori Coggi, direttrice della Direzione Generale Salute e Consumatori della Commissione Europea. La tracciabilità significa che appena si scopre un problema, e in questo caso il problema è stato scoperto in Inghilterra, grazie all'informazione che hanno gli operatori si può risalire la catena di distribuzione e scoprire tutti le varie fasi che questa carne ha incontrato, e quindi quando c'è un problema si interviene. Questo scandalo riaprirà la discussione sulla necessità di indicare in etichetta la provenienza delle carni, che è un tema sul quale l'Italia si è sempre molto battuta. Certo, è stato riproposto, e diciamo la domanda di avere l'origine è una domanda che il consumatore fa, ma non è una domanda che diciamo serve nel campo della sicurezza. La sicurezza uno la garantisce appunto con la tracciabilità, facendo dei controlli. Chiaro, se uno vuole fare una frode cambia tutte le informazioni, quindi in questo caso non è che se avessimo avuto l'origine avremmo saputo di più. Il problema è che purtroppo le frodi in campo alimentare ci sono, si scoprono, e quando si scoprono bisogna intervenire immediatamente. L'intervista dunque a Paola Testori Coggi della nostra Laura Bettini. Ancora, l'Unione Europea ha deciso oggi di sbloccare i primi 20 milioni di aiuti per il governo del Mali. Il contributo fa parte del programma da 250 milioni deciso 3 giorni fa a Dublino nel corso di una ministeriale informale. Gli aiuti erano stati sospesi a causa del colpo di Stato del marzo 2012. Scopo del contributo, che rientra nello strumento di stabilità europea, è quello di sostenere le forze dell'ordine e di servizi giudiziari del paese africano. L'Unione Europea ancora incenerisce o interra il 60% dei suoi rifiuti urbani, gettando via materiali preziosi come lite o cotone, alluminio, regolarmente importati dal mercato interno. Tonnellate di vestiti finiscono nella spazzatura ogni anno, sono 5,8 milioni. Di queste, 3/4 si getta in discarica o nell'inceneritore, mentre solo 1/4 viene riciclato da imprese o va in beneficenza. A fare il punto sull'ultimo rapporto appunto sui rifiuti in Europa è la ONG Friends of Earth Europe. Se l'Europa vuole diventare veramente a rifiuti zero, accanto a target più elevati di riciclo, Bruxelles deve definire anche target per il riuso e la produzione e la prevenzione della produzione di rifiuti. Con il declino della produzione, nonostante gli elevati livelli di riciclo, ogni anno l'UE importa quasi 15 milioni di tonnellate di bauxite e l'impiego di alluminio continua a crescere. Insomma, c'è molto da fare anche su questo fronte. E siamo arrivati alla conclusione. Roberto Scaltretti in regia, Gigi Donelli al microfono, GR Europa torna da lunedì prossimo poco dopo le 15. Buon fine settimana. GR Europa è sostenuto dal Parlamento Europeo. Info su radio24.it.